Capitolo 3. La condanna a 9 mesi ci lasciò sbalorditi oltre ogni misura, soprattutto alla luce di certi fatti recenti, uno dei quali era il caso di alcuni marinai che si erano ammutinati allo scopo di richiamare l'attenzione su qualcosa che ritenevano un rischio per se stessi e tutti gli uomini di mare. Furono processati e riconosciuti tecnicamente colpevoli, ma in virtù delle motivazioni del loro ammutinamento furono rimessi in libertà senza alcuna punizione. Forse più simile al nostro caso era quello del leader dei lavoratori, Tom Mann, il quale poco tempo prima aveva scritto un pamphlet per invitare i soldati di Sua Maestà a non aprire il fuoco sugli scioperanti nel caso avessero ricevuto dai loro superiori l'ordine di farlo. Dal punto di vista del governo, questo era un tipo di incitamento ben più grave del nostro, perché se l'invito fosse stato raccolto, le autorità avrebbero avuto grande difficoltà a mantenere l'ordine. Inoltre, i soldati che rifiutarono di obbedire agli ordini sono passabili di pena capitale. Tom Mann ricevette una condanna a 6 mesi, ma questa sentenza fu accolta dalla stampa liberale e dai politici liberali con un tale clamore e tali proteste che il prigioniero fu rilasciato dopo appena 2 mesi. Perciò, pure mentre venivano portati in carcere, continuavano a ripeterci che le nostre condanne non stavano in piedi. L'opinione pubblica non avrebbe mai permesso al governo di trattenerci in prigione per 9 mesi o nella seconda divisione anche solo per una parte della nostra detenzione. Decidemmo così di attendere 7 giornate parlamentari prima di avviare uno sciopero della fame in segno di protesta. Fu terribile attendere quelle 7 giornate parlamentari perché non avevamo modo di sapere cosa stesse accadendo fuori o cosa veniva detto alla Camera. Non sapevamo niente delle proteste e delle manifestazioni che venivano organizzate a nostro nome dalle università di Oxford e Cambridge, dai membri delle associazioni culturali, da uomini e donne illustri di tutte le professioni, non solo in Inghilterra, ma in ogni paese d'Europa e anche negli Stati Uniti e in Canada e perfino in India. Una petizione internazionale per chiedere di trattarci come prigionieri politici fu firmata da grandi uomini e donne, quali il professor Pavel Miliukov, leader dei democratici della Duma, il signor Enrico Ferri della Camera dei Deputati italiane, Edward Bernstein del Reichstag tedesco, Georg Brandes, Edward Westermarck, Madame Curie, Helen Key, Maurice Maeterlinck e tanti altri. Forte indignazione fu espressa alla Camera, con Keir Hardie e George Lansbury a capo della richiesta di una drastica revisione della nostra sentenza e dell'immediato trasferimento alla prima divisione. Altrettanto forte fu la pressione esercitata per fare in modo che nel giro di pochi giorni il segretario di Stato annunciasse di sentire come proprio dovere valutare le circostanze del caso senza ulteriori ritardi. Spiegò che in nessun momento le detenute erano state costrette a indossare abiti carcerari. Alla fine, che in questo caso significa poco prima del termine delle 7 giornate parlamentari, fummo tutti e tre ricollocati nella prima divisione. Alla signora Patty Clarence fu assegnata la cella prima occupata dal dottor Jameson e io ebbi la cella attigua. Il signor Patty Clarence, recluso alla prigione di Brixton, fu riposizionato in maniera simile. Avemmo tutti il privilegio di ammobiliare le nostre celle con comode sedie, tavoli, lenzuola proprie, asciugamani e così via. Avevamo pasti che ci venivano mandati dall'esterno, indossavamo i nostri abiti e avevamo tutti i libri, i giornali e il materiale per scrivere che richiedevamo. Non c'era concesso inviare o ricevere lettere o vedere i nostri amici, tranne che nelle 2 settimane prefissate. Avevamo comunque guadagnato l'attestazione che i suffragisti sono detenuti politici. L'avevamo guadagnata, ma solo per i nostri singoli casi, come si sarebbe poi rivelato. Quando inoltrammo la domanda, adesso tutte le nostre donne saranno trasferite alla prima divisione? La risposta fu che l'ordine di trasferimento riguardava soltanto me e i signori Patty Clarence. Non c'è nemmeno bisogno di dire che rifiutammo immediatamente questo ingiusto vantaggio. E dopo aver esaurito ogni mezzo, il nostro potere per convincere il segretario di Stato a dare alle altre detenute suffragiste la medesima giustizia che avevamo avuto noi, adottammo la protesta dello sciopero della fame. La voce si sparse rapidamente per tutta Holloway e in qualche misteriosa maniera giunse fino a Brixton, ad Aylesbury e a Winston Green, e tutti gli altri prigionieri suffragisti seguirono subito il nostro esempio. A quel punto il governo si trovò a fare i conti con oltre 80 scioperi della fame e, come prima cosa, non aveva altri piani che ricorrere all'uso della forza, cioè al disgustoso e crudele processo dell'alimentazione forzata. Holloway divenne teatro di orrori e tormenti. Nauseanti scene di violenza si susseguirono ad ogni ora del giorno, tutte le volte che i dottori andavano da cella a cella a svolgere il loro odioso compito. Uno di quegli uomini faceva il suo lavoro in modo così brutale che la sua sola vista provocava grida di orrore e angoscia. Finché avrò vita, non potrò dimenticare la sofferenza che ho sperimentato durante quei giorni in cui le urla mi risuonavano nelle orecchie. In un attacco di follia causato dal dolore, una donna si gettò dalla balconata su cui affacciava la sua cella aperta. Una rete metallica fermò la sua caduta 3 metri più in basso, lungo una scala di ferro, altrimenti sarebbe rimasta inevitabilmente uccisa. Rimase comunque spaventosamente ferita. Lo sciopero della fame collettivo creò grande fermento in tutta l'Inghilterra. Il Consiglio dei Ministri fu inondato quotidianamente dalle interrogazioni. L'apice fu raggiunto il terzo e il quarto giorno dello sciopero, quando alla Camera dei Comuni si verificò una scena burrascosa. Il sottosegretario agli interni, signor Ellis Griffith, era stato incalzato senza pietà sulle condizioni in cui veniva eseguita l'alimentazione forzata. E non appena questo passaggio fu terminato, uno dei parlamentari suffragisti fece un toccante appello al primo ministro in persona, chiedendo il rilascio di tutti i detenuti. Asquith, costretto malvolentieri a prendere parte alla controversia, si alzò e disse che non stava lui interferire con gli atti del suo collega, il signor McKenna, e poi aggiunse nel suo tipico stile garbato e mendace: «Devo precisare una cosa, che non c'è un singolo prigioniero che non possa uscire dal carcere questo pomeriggio stesso facendo la promessa richiesta dal segretario di Stato. La promessa cioè di rinunciare alla militanza». George Lansbury scattò immediatamente in piedi ed esclamò: «Voi lo sapete che non posso. È assolutamente scandaloso che il primo ministro d'Inghilterra faccia una dichiarazione simile». Il signor Asquith lanciò un'occhiata distratta all'indignato Lansbury, ma sprofondò nella sua sedia senza degnarlo di una replica. Turbato nel profondo dell'animo dall'insulto riversato sulle nostre donne, Lansbury si avvicinò a grandi falcate al banco ministeriale e fronteggiò il primo ministro ripetendogli: «È scandaloso che abbiate detto una cosa del genere, signore. È un vero oltraggio vostro e quello dei vostri colleghi. Vi definite galantuomini e alimentate a forza le donne e in questa maniera le uccidete. Dovrebbero rimuovervi dalla carica. Intendo protestare. È la cosa più vergognosa che sia mai accaduta nella storia dell'Inghilterra. Voi passerete alla storia come gli uomini che hanno torturato le donne innocenti». A quel punto la Camera ribolliva di rabbia e l'indignato parlamentare laburista dovette urlare con tutta la voce che aveva per farsi sentire al di sopra del chiasso. I più vennero a sapere solo il giorno dopo dai giornali del borioso ordine dato da Asquith di espellere Lansbury dalla seduta della Camera. In ogni caso, Lansbury continuò la sua protesta per altri 5 minuti. «Voi uccidete, torturate, fate impazzire le donne!» gridò. «E poi dite loro che non possono uscire quando vogliono. Dovreste vergognarvi. Parlate di principi, parlate di combattere nell'Ulster. E anche voi», rivolgendosi ai banchi degli unionisti, «anche voi dovreste essere cacciati dalla vita pubblica. Queste donne vi stanno dimostrando cosa sono i principi. Dovreste solo onorarle per come difendono la condizione femminile». Ve lo ripeto, onorevoli inglesi, dovreste vergognarvi di voi stessi. Il presidente della Camera giunse in aiuto del signor Asquith ed esortò solennemente Lansbury a obbedire all'ordine del primo ministro di lasciare l'aula, dicendo che la sua condotta turbolenta avrebbe fatto perdere rispettabilità alla Camera. «Signore», esclamò Lansbury in un ultimo scatto d'ira, «l'ha già perduta». Questa inaudita esplosione di collera e sdegno contro il governo causò un grande scalpore e da tutte le parti si avvertì la forte necessità che fosse disposto il rilascio dei detenuti o quantomeno la cessazione dell'alimentazione forzata, che sarebbe stata equivalente. Le suffragette marciarono in massa giorno dopo giorno verso Holloway, facendo la serenata alle prigioniere e tenendo assemblee di protesta davanti a folle immense. La musica e le voci di incoraggiamento, trasportate flebilmente alle nostre orecchie, erano di una dolcezza indicibile. Ma fu proprio mentre ascoltavo una di queste serenate che si verificò l'episodio più terribile della mia prigionia. Ero distesa sul letto, indebolita dalla fame, quando udii improvvisamente un urlo provenire dalla cella della signora Lawrence, poi il rumore di una lotta molto violenta e prolungata, e capii che erano venuti a fare i loro sporchi affari nelle nostre stanze. Mi tirai su dal letto e tremando per la debolezza e per la rabbia, appoggiai la schiena al muro e rimasi ad aspettare quello che sarebbe successo. In pochi minuti avevano finito con la signora Lawrence e avevano aperto la porta della mia cella. Sull'uscio vidi i medici e dietro di loro un nutrito gruppo di carceriere. Signora Pankhurst, cominciò il dottore, afferrai prontamente una pesante brocca di terracotta dal tavolo vicino e con le mani, che ora non sentivano più la debolezza, la fece oscillare in alto. Se qualcuno di voi si azzarda a fare un solo passo dentro questa cella, sarò pronta a difendermi, urlai. Nessuno si mosse, né parlò per qualche istante, e poi il dottore borbottò confusamente qualcosa a proposito di farlo domattina, e si ritirarono tutti quanti. Chiesi di poter accedere alla cella della signora Lawrence, dove trovai la mia compagna in condizioni disperate. È una donna forte, molto determinata, e ci è voluta la forza di 9 secondine per avere la meglio su di lei. Avevano fatto irruzione nella cella senza preavviso, l'avevano presa alla sprovvista, altrimenti non ce l'avrebbero fatta in alcun modo. Lei aveva fatto resistenza in modo così violento che i medici non avevano potuto applicarle lo stetoscopio e quindi avevano incontrato grandi difficoltà nel far scendere il tubo. Al termine dell'abbietta pratica, la signora Lawrence era svenuta e stette male ancora per molte ore. Questa fu l'ultima volta in cui provarono ad alimentare a forza la signora Lawrence e me, e 2 giorni dopo fummo rilasciate per motivi di salute. Le altre che facevano lo sciopero della fame furono rimesse in libertà a gruppi, dato che ogni giorno le ribelli portavano il governo sul punto di commettere effettivamente un omicidio. Il signor Lawrence, che era stato alimentato forzatamente 2 volte al giorno per più di 10 giorni, fu rilasciato il 1 luglio in condizioni di totale esaurimento fisico. Nel giro di pochi altri giorni fu rilasciata anche l'ultima detenuta. Non appena mi fu ripresa, mi recai a Parigi ed ebbi la gioia di rivedere mia figlia Christabel, che durante quel periodo di difficoltà e tristezza si era buttata alle spalle tutte le ansie e aveva ripreso con devozione il suo ruolo di comando. L'assenza dei signori Petkin Lawrence aveva caricato sulle sue spalle tutti gli oneri della pubblicazione del nostro giornale, Votes for Women, ma essendo cresciuto il suo senso di responsabilità, diresse il giornale con capacità e giudizio. Avevamo tanto da discutere e valutare, perché era chiaro che la militanza attiva, anziché essere abbandonata, come suggerivano continuamente le altre associazioni suffragiste, dovesse andare avanti in modo più energico di prima. La lotta si era protratta troppo a lungo. Dovevamo trovare la maniera di stringere i tempi, di raggiungere l'apice di modo che il governo si rendesse conto che qualcosa bisognava pur fare. Avevamo già dimostrato che le nostre forze erano inespugnabili. Non potevamo essere conquistate, non potevamo essere spaventate, non potevamo neppure restare chiuse in prigione. Perciò, dato che il governo aveva ormai perso, il nostro compito era semplicemente di accelerare la resa. La situazione in Parlamento, per quanto riguarda la questione del suffragio, era un punto morto. Il terzo Conciliation Bill non era riuscito a passare la seconda lettura, con maggioranza contraria di 14 voti. Molti parlamentari liberali temevano di votare a favore del progetto di legge perché Lloyd George e Lewis Ercour avevano fatto girare insistentemente la voce che il suo eventuale passaggio al tempo avrebbe causato lo scioglimento del Consiglio dei Ministri. I parlamentari nazionalisti irlandesi erano diventati ostili al progetto di legge perché il loro leader, Redmond, era un antisuffragista e si era rifiutato di includere una clausola sul suffragio femminile nel loro rule bill. I nostri vecchi amici parlamentari laburisti erano così apatici o preoccupati per i loro provvedimenti che molti di loro si tennero lontani dalla Camera il giorno in cui il progetto di legge raggiunse la seconda lettura. Quindi era andato perso e i militanti furono incolpati della perdita. A giugno il governo annunciò che il progetto di legge sul suffragio maschile di Asquith sarebbe stato presentato a breve e in effetti il progetto comparve da lì a poco. Semplificava il meccanismo della registrazione, riduceva il requisito del periodo di residenza a 6 mesi e aboliva il requisito della proprietà, il voto multiplo e la rappresentanza universitaria. In una parola, concedeva il voto parlamentare a tutti gli uomini al di sopra dei 21 anni e lo negava a tutte le donne. Mai nella storia del movimento suffragista era stato fatto un tale affronto alle donne e mai nella storia d'Inghilterra si era tentato in questo modo la libertà delle donne. È vero che il primo ministro aveva promesso di presentare un progetto di legge emendabile in modo da includere il suffragio femminile e di consentire ad ogni emendamento che avesse passato la seconda lettura di diventare parte del progetto di legge. Ma noi non avevamo fiducia in un emendamento e tantomeno in un progetto di legge che non fosse fin dal concepimento una misura ufficiale del governo. Esquit aveva infranto qualsiasi promessa che aveva fatto alle donne e questa nuova promessa non ci fece nessun effetto. Sapevamo bene che l'aveva fatta solo per coprire lo sleale siluramento del Conciliation Bill e nella speranza di placare i suffragisti, magari assicurandosi un'altra tregua delle attività militanti. Se quest'ultima era la sua speranza, rimase fortemente deluso. Vari segnali stavano a indicare che alle donne non bastava più la militanza simboleggiata dalla rottura delle finestre. Ad esempio, nell'ufficio del segretario di Stato a Whitehall furono rinvenute tracce di un tentativo di incendio doloso. Tracce simili furono trovate sull'uscio di un altro ministro. Se il governo avesse colto questi avvertimenti, dando finalmente il voto alle donne, tutte le gravi azioni militanti che da allora si sono succedute si sarebbero evitate. Ma come il cuore del faraone, il cuore del governo era diventato insensibile e le azioni militanti si susseguirono una dopo l'altra in rapida successione. A luglio la WSPU pubblicò un manifesto che sanciva le nostre intenzioni al riguardo. Il manifesto recitava in parte quanto segue. Le leader della Women's Social and Political Union hanno dato così tanti avvertimenti al governo che se non viene garantito il voto alle donne in risposta al morbido attivismo del passato, sarà risvegliato un più aggressivo spirito di rivolta che sarà impossibile tenere sotto controllo. Il governo ha ciecamente trascurato gli avvertimenti e ora sta raccogliendo i frutti della sua follia, indegna di uno Stato. Il manifesto fu pubblicato subito dopo la visita di Esquita a Dublino. L'occasione era stata organizzata in pompa magna. Una grande dimostrazione popolare in onore del fautore del Home Rule, ma le suffragette la trasformarono nel più patetico fiasco immaginabile. Dal momento in cui tentò di partire da Londra sino al suo ritorno, Esquit visse e si spostò nel terrore delle suffragette. Ogni volta che saliva o scendeva da un vagone ferroviario o da un vaporetto, trovava le donne ad aspettarlo. Ogni volta che si alzava per parlare, veniva interrotto dalle donne. Ogni sua apparizione pubblica veniva trasformata in una sommossa dalle donne. Quando ripartì da Dublino, una donna gettò un'ascia nella sua vettura senza tuttavia ferirlo. Come atto di protesta finale contro l'accoglienza riservatagli dagli irlandesi, il Theatre Royal fu incendiato da due donne. Il teatro era praticamente vuoto, essendosi già conclusa l'esibizione, e i danni furono relativamente contenuti, eppure le due donne principalmente coinvolte, la signora Leith e la signorina Evans, subirono la barbara condanna a 5 mesi di carcere ciascuna. Queste furono le prime donne condannate ai lavori forzati nella storia del nostro movimento. Ovviamente non scontarono la pena. Una volta entrate alla prigione Mountjoy, avanzarono la consueta richiesta di ricevere il trattamento della prima divisione e, vedendosi opporre un rifiuto, adottarono immediatamente lo sciopero della fame. Diverse suffragette irlandesi si trovavano in quella prigione per aver protestato contro l'esclusione delle donne dalla Home Rule Bill. Erano nella prima divisione ed erano quasi la vigilia della scarcerazione, ma tale era l'indomito spirito di militanza che queste donne avviarono per solidarietà anche loro lo sciopero della fame. Furono rimesse in libertà, ma il governo vietò il rilascio della signora Leith e della signorina Evans. Cioè, fu ordinato alle autorità di trattenere le donne più a lungo possibile e di tenerle in vita con l'alimentazione forzata. Dopo una lotta che con crudeltà e ferocia non ha quasi uguali nella nostra storia, le due donne ottennero la libertà. Nel corso di quell'estate ci fu un'impennata della militanza per tutto il regno. Venne messa in atto una serie di assalti ai campi da golf, non tutti nello spirito di creare danni eccessivi, ma con l'obiettivo molto diretto e pratico di ricordare al sordo e compiaciuto pubblico inglese che quando le libertà delle donne inglesi venivano rubate, non era il momento di pensare allo sport. Le donne scelsero dei circoli di campagna dove i politici liberali di punta avevano l'abitudine di trascorrere il loro fine settimana di svago e bruciarono con l'acido grandi spicchi di manto erboso, rendendo in tal modo temporaneamente inutilizzabili i green. In alcuni casi bruciarono i campi in modo da far apparire la scritta voto alle donne e si lasciarono sempre dietro un segnale che le donne stavano conducendo una guerra per la loro libertà. Una volta al castello di Balmoral in Scozia, le suffragette invasero i campi da Golf Royal e all'alba della domenica mattina tutte le bandierine delle buche furono trovate rimpiazzate dalle bandierine della WSPU, recanti iscrizioni come «Il voto alle donne significa pace per i ministri», «L'alimentazione forzata deve essere fermata» e altre sullo stesso tono. I campi da golf furono visitati spesso dalle suffragette al fine di contestare i ministri volta gabbana. Due donne seguirono il primo ministro fino a Inverness, dove stava giocando a golf col signor McKenna. Avvicinandosi agli uomini, una suffragetta esclamò: «Signor Asquith, dovete fermare l'alimentazione forzata!» Non si spinse oltre, poiché Asquith, pallido di rabbia, forse, indietreggiò verso il segretario di Stato, il quale, dimenticando il suo ruolo, agguantò la suffragetta urlando che l'avrebbe gettata nel laghetto. «Poi vi porteremo con noi», dissero i due. Dopodiché seguì una movimentata baruffa e le donne non furono gettate nel laghetto. Queste incursioni nei campi da golf fecero emergere un'ostilità verso di noi ancora più forte di quella generata dalla rottura delle finestre. I giornali ci indirizzarono degli appelli chiedendoci di non interferire in un gioco che aiutava gli stanchi politici a ritemprarsi e ad essere più lucidi, ma la nostra risposta fu che il primo ministro, o con il signor Lloyd George, non sarebbe comunque servito a niente. Avevamo tutta l'intenzione di disturbare il loro sport e quelli di un'ampia categoria di uomini agiati, in modo da obbligarli a pensare in maniera lucida alle donne e alla determinazione delle donne nel cercare di ottenere giustizia. Feci ritorno al lavoro attivo in autunno, parlando a una grande assemblea della WSPU tenutasi all'Albert Hall. Alla riunione dovetti annunciare che il sodalizio dei signori Patting Lawrence con la WSPU, durato 6 anni, è raggiunto al termine. Siccome all'interno della WSPU non si sono mai avuti dissensi personali, che appunto mai hanno ostacolato il movimento o interferito con il suo avanzamento, su questo importante dissenso non dirò qui nulla più di quanto dissi alla nostra prima grande riunione dopo le vacanze all'Albert Hall il 17 ottobre, il giorno in cui per strada fu venduto un nuovo giornale. Si chiamava The Suffragette, era diretto da Christabel Pankhurst e da allora in poi sarebbe stato l'organo ufficiale della WSPU. Sia su questo nuovo giornale, sia su Votes for Women, comparve il seguente comunicato. Importante dichiarazione delle leader. Alla prima riunione delle leader dopo le vacanze forzate, la signora Pankhurst e la signorina Christabel Pankhurst hanno tracciato una nuova linea politica militante che il signore e la signora Patting Lawrence si sono trovati del tutto impossibilitati ad approvare. La signora Pankhurst e la signorina Christabel Pankhurst hanno asserito di non essere disposta a modificare le loro intenzioni, auspicando che il signore e la signora Patty Clarence riprendessero il controllo del giornale Wits for Women e uscissero dalla Women's Social and Political Union. Piuttosto che dar vita a uno sciame nella fila dell'organizzazione, il signore e la signora Patty Clarence hanno acconsentito a prendere questa strada. L'annuncio era firmato da tutti e quattro. Quella sera alla riunione spiegai inoltre alle associate che, per quanto fosse indubbiamente dura la separazione da vecchi amici e compagni, dovevamo ricordarci sempre che stavamo combattendo in un esercito e che l'unità degli obiettivi e l'unità della linea politica sono assolutamente necessarie perché senza coesione l'esercito è irrimediabilmente indebolito. È meglio, dissi, che chiunque non sia d'accordo, chi non veda le cose allo stesso modo riguardo alla linea politica, si senta libero di andarsene, di staccarsi, di perseguire una propria linea politica a modo suo, senza le restrizioni imposte da quelli con cui non è più in sintonia. Proseguì dicendo: «Nessuno più di me è riconoscente e grato ai signori Patty Clarence per gli incalcolabili servizi che hanno reso al movimento attivista per il suffragio femminile e sono fermamente convinta che il movimento delle donne si rafforzerà se loro saranno liberi in futuro di lavorare per il suffragio femminile come meglio credono. Mentre noi, della Women's Social and Political Union, andremo avanti con la militanza a favore del suffragio femminile, avviata da me e mia figlia e un'altra manciata di donne più di 6 anni fa». Continuai poi analizzando la situazione in cui si trovava la WSPU e tracciando la nuova linea politica militante che avevamo deciso di intraprendere. Si trattava di una linea politica, tanto per iniziare, di inflessibile opposizione, non solo al partito che era al potere, il Partito Liberale, ma a tutti i partiti della coalizione. Ricordai alle donne che il governo, che ci aveva ingannato e tradito e che adesso tramava per rendere i nostri progressi verso la cittadinanza attiva doppiamente difficili, era tenuto in carica dalla coalizione di tre partiti. C'era il Partito Liberale, nominalmente il partito di governo, ma non sarebbe durato un giorno in più senza l'appoggio dei partiti nazionalisti e laburista. Quindi dovevamo dire non solo al Partito Liberale, ma anche al Partito Nazionalista e al Partito Laburista: fin tanto che manterrete in carica un governo antisuffragista, sarete corresponsabili delle sue colpe e d'ora in poi vi garantiamo la stessa opposizione che facciamo alle persone che state mantenendo al potere col vostro supporto. Dissi inoltre: abbiamo chiamato il Partito Laburista a compiere il suo dovere come da suo programma e di fare opposizione al governo su ogni questione finché il governo non darà giustizia alle donne. A quanto pare non hanno intenzione di farlo. Alcuni di loro ci hanno detto che ci sono cose più importanti della libertà delle donne, della libertà delle lavoratrici. Noi diciamo: allora, gentili signori, dobbiamo insegnarvi il valore dei vostri stessi principi e finché non sarete pronti a sostenere il diritto alle donne di decidere la propria vita e le leggi a cui devono sottostare, voi, signor Esquit e compagnia, siete allo stesso modo responsabili per tutto quello che è successo e sta succedendo alle donne in questa battaglia per l'emancipazione. Delineando ulteriormente la nostra nuova e più energica politica di attacco, dissi: si muovono tante critiche, signore e signori, a questo movimento. Mi pare sempre, quando i membri antisuffragisti del governo criticano la militanza delle donne, che è come quando i predatori rimproverano gli animali più mansueti che fanno una resistenza disperata quando sono in punto di morte. Le critiche dei galantuomini, che non esitano a ordinare agli eserciti di uccidere e ammazzare i loro oppositori, che non esitano a incoraggiare le bande ad attaccare le donne indifese e le assemblee pubbliche. Le loro critiche non suonano giuste. E ricevo lettere di persone che mi raccontano di essere ardenti suffragiste, ma dicono di non gradire i recenti sviluppi del movimento militante. E mi implorano di invitare i nostri membri a non agire in modo inconsciamente contro la vita umana. Signore e signori, l'unica incoscienza che le militanti suffragiste hanno dimostrato verso la vita umana è stata quella verso le proprie vite e non verso le vite altrui. E qui e adesso dico che la politica della Women's Social and Political Union non è mai stata e mai sarà tanto incosciente da mettere in pericolo la vita umana. Quello lo lasciamo al nemico, lo lasciamo agli uomini che fanno la guerra, non è il metodo delle donne. Dal punto di vista della politica pubblica, nessuna militanza che intacchi la sicurezza della vita umana sarebbe fuori posto. C'è una cosa che i governi hanno a cuore molto più della vita umana ed è la sicurezza della proprietà. E quindi è proprio nella proprietà che noi colpiremo il nemico. D'ora in avanti, le donne che sono d'accordo con me diranno: noi non osserviamo le vostre leggi, gentili signori. Noi mettiamo la libertà e la dignità e il bene delle donne al di sopra di ogni cosa e continueremo questa guerra come abbiamo fatto in passato. E qualsiasi sacrificio della proprietà, qualsiasi oltraggio alla proprietà non sarà colpa nostra. Sarà colpa del governo che riconosce la legittimità della nostra rivendicazione, ma si rifiuta di accoglierla senza la prova. Così ci hanno detto, offerta ai governi del passato, la prova che coloro che rivendicavano la libertà siano sinceri nella loro richiesta. Invitai le donne della riunione a unirsi a me in questa nuova militanza e ricordai loro ancora una volta che le donne che combattevano nell'esercito delle suffragette avevano una grande missione, la più grande missione che il mondo abbia mai conosciuto, la libertà di metà della razza umana e attraverso quella liberazione la salvezza dell'altra metà. Dissi a tutte loro: siate militanti, ciascuna a proprio modo. Quelle tra di voi che possono esprimere la militanza recandosi alla Camera dei Comuni e rifiutando di andarsene senza aver avuto soddisfazione, come osavamo fare i primi tempi, lo facciano. Quelle tra voi che possono esprimere la militanza affrontando le bande al soldo dei partiti alle riunioni del Consiglio dei Ministri, quando osate ricordare l'ipocrisia che mostrano verso i loro principi, lo facciano. Quelle tra voi che possono esprimere la militanza unendosi a noi nella nostra politica antigovernativa alle elezioni speciali, lo facciano. Quelle tra voi che possono rompere le finestre, le rompano. Quelle tra voi che possono ancora assaltare il segreto idolo della proprietà, in modo da far capire al governo che la proprietà è messa a repentaglio dalle donne, quanto lo fu un tempo dai cartisti, lo facciano. E la mia ultima parola è rivolta al governo. Io incito questa assemblea alla ribellione. Dico al governo, non avete avuto il coraggio di arrestare i leader dell'Ulster per il loro incitamento alla ribellione? Prendete me, se avete il coraggio. Ma se osate farlo, vi dico una cosa, che fino a quando quelli che hanno incitato alla rivolta armata e alla distruzione della vita umana nell'Ulster saranno liberi, voi non mi terrete chiusa in prigione. Finché gli uomini ribelli e votanti saranno liberi, noi non resteremo in prigione. Prima divisione o non prima divisione. Chiedo ai miei lettori, alcuni dei quali saranno senza dubbio scioccati e irritati da queste mie parole pronunciate tanto apertamente, di mettersi nei panni di quelle donne che per anni avevano interamente e illimitatamente dedicato la propria vita all'impegno per garantire la libertà politica delle donne, che avevano convertito una parte talmente ampia dell'elettorato che se la Camera dei Comuni fosse stato un organismo libero, avremmo conquistato quella libertà già da tempo, che si erano viste negare la libertà con mezzi sleali e con abusi di potere. Vi chiedo di tenere conto che noi, nelle nostre agitazioni, avevamo utilizzato solo mezzi pacifici fino a quando non ci siamo rese conto che i mezzi pacifici erano del tutto inefficaci. Per anni avevamo portato avanti azioni militanti più morbide, finché non siamo state schernite dal Consiglio dei Ministri, che ci hanno detto chiaramente che non avremmo mai ottenuto il diritto di voto se non avessimo impiegato la stessa violenza usata dagli uomini nelle loro agitazioni per il suffragio. In seguito siamo quindi passati a un attivismo più energico. Ma anche allora, il confronto all'attivismo degli uomini nelle dispute sui temi del lavoro non potevamo certo essere considerate violente. In tutte queste fasi della nostra militanza siamo state punite con la massima severità, mandate in carcere come criminali comuni e negli ultimi anni torturate come nessun criminale è stato torturato per un secolo nei paesi civilizzati di tutto il mondo. E durante tutti questi anni avevamo assistito a devastanti scioperi che avevano provocato sofferenze e morte, per non dire dell'enorme spreco economico. E non avevamo mai visto un singolo leader degli scioperi che fosse stato punito come noi. Noi, che avevamo subito condanne a 9 mesi di prigione per aver incitato le donne a una rivolta dolce, abbiamo visto un leader dei lavoratori che aveva fatto del suo meglio per incitare un esercito all'ammutinamento, rimesso in libertà dal governo dopo appena 2 mesi. Ed eravamo arrivati al punto in cui si avvertiva la minaccia della guerra civile, tanto che sui giornali si leggevano ogni giorno trascrizioni di percorsi 1.000 volte più incendiari di qualsiasi cosa avessi mai letto prima. Sentivamo parlamentari di spicco dichiarare apertamente che se fosse passato l'Home Rule Bill, l'Ulster avrebbe combattuto e l'Ulster avrebbe avuto ragione. Nessuno di questi uomini fu mai arrestato, anzi, venivano applauditi. Lord Selborne, uno dei nostri critici più severi, riferendosi al fatto che gli uomini dell'Ulster si stavano addestrando alle armi, disse pubblicamente: Il metodo che la gente dell'Ulster sta adottando per dimostrare la profondità delle proprie idee e l'intensità dei propri sentimenti resterà impresso nell'immaginazione di tutto il paese. Ma Lord Selborne non fu arrestato e non lo furono neanche funzionari ribelli che si dimisero dalle loro commissioni quando ricevettero l'ordine di schierarsi contro gli uomini dell'Ulster, che si stavano realmente attrezzando per la guerra civile. Cosa significa tutto questo? Come mai la sanguinaria militanza degli uomini viene applaudita e la simbolica militanza delle donne punita con la galera e l'orrore dell'alimentazione forzata? Significa semplicemente questo, che la doppia scala di valori degli uomini, basata su una morale sessista, secondo cui le vittime della loro bramosia sono ritenute delle emarginate, mentre gli uomini stessi sfuggono ad ogni censura sociale, si applica all'etica di ogni aspetto della vita. Gli uomini fissano il codice morale e si aspettano che le donne lo accettino. Hanno stabilito che è del tutto giusto e doveroso che gli uomini combattano per le loro libertà e i loro diritti, ma che non è giusto e doveroso che le donne combattano per i propri. Hanno deciso che per gli uomini è vigliacco e disonorevole restare silenziosamente inerti dinanzi a regole tiranniche che impongono su di loro vincoli di schiavitù, ma che per le donne la stessa cosa non sarebbe vigliacca e disonorevole, solo dignitosa. Bene, le suffragette ripudiano nel modo più assoluto questa doppia scala di valori morali. Se è giusto per gli uomini lottare per la propria libertà, e Dio sa come sarebbe oggi la razza umana se non l'avessero fatto dagli inizi dei tempi, allora è giusto anche che le donne lottino per la propria libertà e per la libertà dei figli che portano in grembo. Su questa dichiarazione di fede, le donne militanti d'Inghilterra chiudono l'argomento.